Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà in compagnia di Alvise per una nuova puntata di Overbooking. Assieme a me Daniele ai macchinari, Matteo Polo che coautora con me questo programma e che finalmente ci presta la sua voce, e l'ospite di questa sera che ringrazio per essere qui con noi, Romina Franchin, responsabile delle attività culturali e della biblioteca del comune di Jesolo. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Allora, noi siamo qui riuniti per parlare delle attività culturali del comune di Jesolo innanzitutto, ed in particolare delle attività connesse alla figura di Silvio Trentin. Perché, Romina? Perché all'interno della biblioteca comunale è conservato un fondo documentale interamente dedicato a Silvio Trentin, che ha anche un nome specifico, cioè si chiama Centro Studi e Ricerca Silvio Trentin. Questo centro si è formato nel 1974 per una serie di coincidenze dell'epoca, e si è formato in particolare grazie alla figura dell'allora assessore alla cultura Raffaello Zanonner. Al tempo, diciamo, erano gli anni 70, quindi la situazione politica era diversa da quella che c'è adesso, e c'era un'attenzione anche diversa per il periodo storico della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. C'erano, diciamo, questo interesse culturale a formare e a fondare questo centro, c'era un'amicizia di Zanonner con Bobbio che ha portato alla raccolta di un primo nucleo documentale su Silvio Trentin, che si è poi nel corso del tempo incrementato sempre di più fino a diventare abbastanza corposo e che raccoglie varie tipologie di documenti. Ecco, dopo nel corso della puntata andremo un po' a esplorare quelli che sono i contenuti dell'archivio che risiede a Jesolo, e prima però facciamo un passo indietro e, aiutati dal nostro Matteo che da sempre coautora questo programma, andiamo un po' a esplorare chi è Silvio Trentin e perché questa figura è particolarmente importante per il nostro territorio. Allora, innanzitutto grazie ad Alvise e a Daniele per avermi fatto finalmente intervenire in quella che è la nostra trasmissione. Detto ciò, passiamo appunto a Trentin. Trentin nasce a Saint-Ouen nel 1885 e tutta la sua famiglia è una famiglia di possidenti terrieri. Infatti il primo passaggio per cui Trentin è importante per il territorio santonatese è proprio quello legato alle bonifiche. Trentin padre e Trentin figlio interverranno attivamente in questo contesto. Successivamente Trentin si specializzerà in diritto amministrativo, studierà a Pisa e diventerà professore universitario a Venezia. Infatti, Ca' Foscari, fra l'altro, c'è anche la biblioteca Trentin, che poi purtroppo è stata persa per travagliate vicende. Nel 25 Trentin sarà uno dei pochissimi professori universitari che rifiuteranno di aderire al manifesto fascista e per questo troverà l'esilio in Francia. In Francia, diciamo, opererà un'attività da fuoriuscito, lavorerà come operaio, come manovale in una tipografia per mantenersi e questo fa che riflettere sul ruolo dell'intellettuale operaio che al giorno di oggi è una figura un po' disprezzata. Opererà all'interno dell'associazione antifascista Giustizia e Libertà, opererà anche da collegamento durante la guerra di Spagna e nel 1943 scriverà probabilmente quella che è la sua opera più famosa, Liberale e Federale. Infatti Trentin è famoso soprattutto per il suo contributo all'opera, al pensiero federalista, perché infatti in quegli stessi anni Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scriveranno a 28enne il manifesto di quella che si può considerare la futura Costituzione dell'Europa e Trentin darà un contributo importante in questo senso. Nel 1944 Trentin tornerà nella sua Saint-Ouen, infatti ci sono anche delle foto conservate a Jesolo in cui si vede come proprio l'accoglienza riservata a Silvio sia stata trionfale. Purtroppo Trentin per problemi cardiaci morirà nell'ospedale di Monastier pochi mesi dopo essere tornato in Italia. E per quello che, diciamo, hai avuto modo di approfondire e di studiare in questi anni, Matteo, come è stato, diciamo, quali commenti e cosa è stato fatto, sul pensiero originale di Trentin? Perché è ancora molto attuale in qualche modo. Allora, negli anni 70-80 Trentin, diciamo, ha un buon periodo a livello di studi accademici, poi viene dimenticato intorno agli anni 90. Il suo paradossalmente verrà rivalutato con l'aumento della Lega, perché appunto Trentin è importante per quanto riguarda il concetto di federalismo. La Lega aveva già Gianfranco Miglio come ideatore del pensiero federale in Italia, però chiaramente Trentin viene recuperato per gli aspetti dei suoi studi che più potevano interessare la Lega. Questo chiaramente ha anche una parte positiva, nel senso che a questo punto viene anche un recupero della sua opera e viene riscoperto. Infatti, come vedevamo anche Colonnina, a livello di studi, sia proprio più specificatamente accademici, a livello quindi di tesi di dottorato, di ricerche universitarie, c'è molto fervore in questo periodo, ma anche a livello di semplici, tra virgolette, tesi di laurea, ma a vari livelli, psicologia, sociale, economico, ci sono molti studenti che si rivolgono al centro di Jesolo per avere dei riferimenti su Silvio Trentin e questo fa capire come al giorno d'oggi la sua figura, grazie alla Lega, sia molto più recuperata rispetto agli anni passati. E adesso abbiamo quindi l'opportunità, assieme appunto a Matteo e Romina, di approfondire un po' quella che è la figura di Silvio Trentin e la sua spiccata attualità per quelle che sono un po' la disciplina delle scienze sociali e della filosofia politica in genere. Prima facciamo un breve intermezzo musicale, questo è Chet Barker. The more I I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. Can you imagine how much I love you? The more I see you as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. My arms won't free you, my heart won't cry. Ben ritrovati sui 102.2 di Radio Sandonà in compagnia di Overbooking. Con noi i nostri ospiti, se posso chiamarli così. Beh, uno è una vecchia gloria del programma, Matteo Polo e Romina Franchin, e ci stanno parlando dell'archivio oggi conservato a Jesolo riguardante la figura di Silvio Trentin. Ci anticipavi, Romina, prima che l'archivio è composto di documenti di vario genere e è abbastanza nutrito, insomma. Cosa ci troviamo? Allora, diciamo che l'archivio è composto da tre nuclei fondamentali. Abbiamo una parte documentale, una parte fotografica e una parte di libri. La parte documentale, diciamo fisicamente, è composta di vari fascicoli divisi per argomenti che riguardano sia diciamo la storia di Silvio Trentin, i suoi scritti, documenti di vario genere sulla resistenza, sul periodo appunto del 43, 44, 45. Dopodiché abbiamo una serie di carteggi con lettere, eccetera, e un grosso nucleo che riguarda anche la bonifica, che è appunto un argomento molto importante per il nostro territorio. Oltre a questo abbiamo poi tutta la parte dell'archivio fotografico, che conserva sia delle foto originali del tempo di Silvio Trentin e della sua famiglia. Ad esempio ci sono delle cartoline di quando lui stava a Tolosa, di quando aveva la libreria, eccetera, che sono anche interessanti per vedere anche le persone che frequentava, eccetera. E poi abbiamo una parte di libri che sono stati raccolti nel corso degli anni, libri diciamo che hanno come argomento anche questi la storia della Seconda Guerra Mondiale, oppure comunque la storia dell'antifascismo. Questo diciamo è l'area di descrizione che abbiamo nel fondo librario. al momento sono tutti appunto conservati all'interno di una stanza e possono essere consultati ovviamente su richiesta, perché non è un materiale che può essere prestato, eccetera. Comunque questa è la parte che abbiamo. Dopodiché abbiamo anche un'altra piccola parte che riguarda proprio gli scritti di Trentin, di cui noi conserviamo un buon numero anche proprio a livello conservativo. Per cui gli studenti o anche i semplici curiosi che si rivolgono al centro hanno una panoramica completa della sua attività. Infatti questa è proprio una domanda che... Chi sono i fruitori normalmente del fondo archivistico? Allora è un po' varia diciamo la fruizione, e anche non è costante nel tempo. Ci sono periodi in cui c'è più gente, periodi in cui magari è più silente. Allora innanzitutto ci sono gli studenti universitari, non solo studenti che fanno facoltà di storia o letterarie, abbiamo anche chi studia diritto. L'altro giorno mi è capitata una ragazza che studia psicologia, che voleva indagare la sfera umana di Silvio Trentin, cioè lei voleva fare una tesi per capire proprio la sua sfera umana e come si poneva nei confronti del, cioè cosa sarebbe diventato il federalismo nei confronti delle persone. Una tesi abbastanza ambiziosa. Sì, è bello che i documenti contenuti nel vostro archivio permettano una cosa del genere, perché vuol dire che vanno in effetti molto in profondità anche in, sì, quella che è la storia personale di Trentin. Sì, infatti ci sono anche delle lettere personali conservate all'interno del centro di Silvio Trentin, sia autografe che invece magari delle copie che abbiamo ricevuto tramite la famiglia, eccetera. Per cui infatti uno dei progetti ambiziosi che avevamo era ricostruire l'epistolario di Trentin, che ci avrebbe permesso di vedere qual era anche la sua figura umana, perché chiaramente dagli scritti giuridici non è che puoi ricavare, certo, questo, insomma. Quindi diciamo che l'utenza che si rivolge a noi è sia di tipo universitario, oppure è capitato anche di professori proprio universitari che ci chiamano per avere della documentazione, politici che possono chiederci per i loro studi sul federalismo, o anche semplici curiosi. L'ultima richiesta che ho avuto viene dal Brasile, da una persona che studia i fuoriusciti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa diciamo è la... E adesso andremo ad approfondire con Matteo quello che è il fervore accademico, se così possiamo chiamarlo, che diciamo ruota intorno alla figura di Silvio Trentin. Recentemente ci dicevi c'è stata una conferenza che ha un po' raccolto tutte le testimonianze e i contributi dei maggiori esperti in qualche modo nello studio di Trentin. Esattamente, recentemente c'è stato questo convegno nel magnifico Cinema Teatro Eden di Treviso, finanziato, il cui restauro è stato finanziato dalla Cassa Marca, ed è venuto fuori veramente un gioiellino. In questo contesto si è tenuta una giornata di studi mattina e pomeriggio dedicata ai vari aspetti di Silvio Trentin: l'aspetto più storico ovviamente, l'aspetto del diritto, l'aspetto umano e l'aspetto familiare. A questo proposito voglio dire che in questa occasione è stata spiegata anche la figura dei figli di Silvio Trentin, che non sono stati meno importanti del padre, perché un figlio, Bruno Trentin, è stato il segretario della CGIL prima di Epifani e ha condotto battaglie molto importanti per i lavoratori. L'altra figlia, Franca, è stata anche lei una grande figura partigiana, giovanissima, ha lavorato nell'università come lettrice di francese e nell'ultima parte della sua vita, nella vecchiaia diciamo, è stata un po' il punto di aggregazione per tutti quelli che facevano riferimento alla cultura antifascista. Infatti Franca, nel suo famoso salotto veneziano, ha raccolto intorno a sé varie generazioni di studiosi che appunto dedicavano il loro lavoro all'antifascismo in genere e li ha sempre incoraggiati. Purtroppo Franca è recentemente mancata, poco più di un mese fa, e il dolore della città di Venezia, posso testimoniare, avendo io visto il funerale con i miei occhi, è stato molto vivo. C'è stato l'intervento del sindaco Orsoni, attuale sindaco, c'è stato l'intervento del precedente sindaco Massimo Cacciari, che ha fatto appunto capire come l'importanza della famiglia Trentino, quindi non solo Silvio ma anche Franca e Bruno, e ci metto anche Giorgio, il terzo dei figli, sia stato molto importante non soltanto per Sant'Onà, per Venezia, ma anche comunque per tutto il nostro paese. E adesso, prima di andare ulteriormente ad approfondire quella che è la figura e il lascito di Silvio Trentin e tutto ciò che è raccolto nel fondo archivistico del Comune di Jesolo, vi ricordo che questa puntata, come le precedenti, sono ascoltabili o scaricabili dal nostro sito, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Per intervenire in trasmissione, invece, potete sempre alzare la cornetta e telefonare allo 0421 560993. Adesso andiamo a sentirci un po' di musica e poi ritorniamo in compagnia di Romina e Matteo. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. My love must be some kind of blind love. I don't see anybody but you. But I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from. Some kind of blind love. I don't see anybody but you. Torniamo a parlare dopo questo intermezzo musicale affidato a Jimmy Callan, con Matteo della figura di Trentin. E vorrei che così delineassi un po' per i nostri ascoltatori quello che sono diciamo i punti cardine del pensiero politico, che, come si diceva prima, in qualche modo è ancora molto attuale. Allora, inizio con una citazione tratta dal suo Liberale e Federale del 43. L'Italia è una Repubblica federale che rivendica in questa sua qualità il titolo di membro fondatore della Repubblica Europea. La Repubblica Federale Italiana è una collettività di regioni autonome e ogni singola regione costituisce, alla sua volta, un ordine federale. Ciascun cittadino della Repubblica Federale gode, oltre alla nazionalità italiana, cittadinanza di una delle regioni della Repubblica. Quindi questo fa capire, per certi versi, come Trentin, il pensiero di Trentin, possa essere utile in questo senso alla Lega, perché appunto si pone molto l'accento sulla questione regionale, sull'autonomia che ogni regione dovrebbe avere all'interno di uno Stato federale, quale dovrebbe essere l'Italia. In un certo senso Trentin forse si ispirava molto anche all'ordinamento costituzionale statunitense, dove infatti ci sono vari stati, ognuno con una grande autonomia, però tutti inquadrati nella cornice di quello che è, diciamo, la Repubblica statunitense. E Trentin pensava esattamente a questo tipo di ordinamento. Però attenzione, Trentin non è incentrato su un fenomeno localistico, regionalistico, bensì aveva in mente un concetto di Europa, in anticipo sui tempi, perché ricordiamoci, siamo nel 44, non si parlava ancora certamente di un'Europa e tantomeno di un'Europa unita. Le divisioni fra vari stati, Italia, Francia, Germania, erano ancora molto nette. Non ti fa pensare che nel 44 ci sia uno studioso di ordine di diritto amministrativo che parli di un'Europa federale. E quindi, diciamo, questa forse è stata la più grande conquista del pensiero politico di Trentin, che, oserei aggiungere, non è solo attuale ai giorni nostri, ma anche fortemente anticipatore, nonostante siamo 60 anni dopo, perché noi siamo ancora bloccati a discutere del federalismo italiano. E invece Trentin pensava già a un federalismo europeo, e quindi questo ci deve far riflettere su quanto siamo arretrati rispetto a dei precursori come Trentin. Sì, infatti sono assolutamente d'accordo con te, perché proprio facendo riferimento alla tua citazione, lì si legge, secondo me, proprio un pensiero politico su, in un certo senso, tre dimensioni, perché abbiamo la dimensione regionale, che è incastrata in un ordinamento Italia più grande, che però è già all'interno di un contesto europeo che Trentin vede, per cui da quel punto di vista lì è, sì, in qualche modo è un'avanguardia. No, infatti probabilmente al giorno d'oggi la Lega dimentica proprio due delle tre dimensioni, come dicevi tu, perché in questi giorni è molto di attualità questa questione del federalismo, che non si sa adesso se verrà approvato definitivamente o meno, però fa riflettere come il fenomeno leghista usi soltanto una parte di un pensiero molto più articolato e molto più complesso, e quindi dà alla gente comune un'idea del federalismo che certamente non risponde a quella che era, diciamo, quella dei suoi fondatori, come appunto Trentin. Benissimo. Adesso, ritornando invece a parlare un po' di quello che è l'archivio e la memoria, in qualche modo, di Silvio Trentin, che ritroviamo a Jesolo. Allora, c'è stata un'opera in tempi recenti di catalogazione e di, diciamo, riordino di questo archivio. Ce ne vuoi parlare un po', Romina? Sì, allora, l'archivio è praticamente completamente informatizzato. È raggiungibile da due punti, o dal sito internet del comune, quindi www.comune.jesolo.ve.it, oppure dal sito dell'ISMLI, che è l'Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione Italiano. All'interno del sito dell'ISMLI si trova, diciamo, una raccolta di tutti quelli che sono gli archivi storici della Resistenza italiani, quindi si può raggiungere da lì o dall'altra parte. La catalogazione è stata compiuta circa nel 2003, mi pare fosse metà degli anni 2000, insomma, e è stata finita e dopo rivista in parte per quel che riguarda la parte fotografica, l'ho rifatta completamente io un paio d'anni fa. Per cui online si trova tutto, la descrizione del documento, il luogo, la collocazione e anche la trascrizione nel caso siano appunto dei carteggi o cose di questo tipo. Le foto si possono visionare, ovviamente non sono scaricabili perché sono coperte da copyright, esatto. E quindi ci puoi ripetere il sito a cui una persona può rivolgersi nel caso Sì. in cui sia interessato? O dal sito dell'ISMLI, che è l'Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione Italiano, oppure dal sito ufficiale del comune di Jesolo, che è o www.comune.jesolo.ve.it, oppure per un tragitto un po' diverso da Laborioso. www.jesolo.it, che è il sito turistico, ma c'è un rimando anche al sito istituzionale. E questo l'archivio poi quindi è accessibile a chiunque voglia farne uso, in sostanza. Esatto, basta semplicemente contattare la biblioteca, parlare con me e viene data massima disponibilità concordando l'orario sull'accesso. Non ci sono quindi limiti, diciamo, ideologici. Noi ci siamo dati come regola quella di far accedere a chiunque abbia necessità di utilizzare questo tipo di documentazione, anche se magari il pensiero che produce può non essere conforme alla dottrina ufficiale, diciamo, ecco. Poi di solito una curiosità, chi fa lavori utilizzando l'archivio ve ne Ce ne lascia lascia copia? copia, sì, noi la chiediamo perché poi il materiale viene riutilizzato da altri studiosi, perché nel momento in cui viene lì una persona ha già una panoramica su quello che è stato fatto, insomma. Si genera in qualche modo un filone di ricerca. Esatto. Benissimo, e adesso prima di andare un po' a esplorare quelle che sono le altre iniziative che ruotano attorno al comune e alla biblioteca di Jesolo, un breve intermezzo musicale. She is the day that gives me time to love and linger, love my life. Tonight comes on with sundown scythe to end the pause of pantomime. She is the day of love. She is the bridge on which I wait to watch the river 'neath me flow, all spinning, surging far below, along the deep and bending straits. She is the bridge of love. The day through which I walk toward the bridge where she stands. She is the air I breathe to sing. She is a smile without demands. She is a smile that keeps me warm with matchless laughter, eyes ablaze. A mischief mystery she plays upon the flute of early morn. A smile of love. She is the air of love. She is the day of love. E dopo aver esplorato un po' quello che è il patrimonio archivistico presente nel comune di Jesolo, volevo sapere da Romina un po' cos'altro circola attorno alla biblioteca. Allora, la biblioteca è un mondo abbastanza complesso. Noi siamo biblioteca e cultura assieme, siamo servizi bibliotecari e culturali, per cui da noi gira un po' tutto, gira il teatro, quindi noi gestiamo tutta la rassegna teatrale del Vivaldi, gira la rassegna del cinema, tutti gli spettacoli e i concerti musicali che vengono fatti al Vivaldi, che sono patrocinati dal comune, li gestiamo praticamente noi, gestiamo la rassegna di musica jazz e tutta una serie di altre attività poi legate alla biblioteca, più alla biblioteca, diciamo, quindi la promozione di libri, eccetera. Abbiamo degli eventi particolarmente importanti, insomma, come la presentazione della cinquina finalista del Campiello, che viene fatta in settembre e viene preannunciata di solito dall'attività che si chiama, dalla rassegna che si chiama Jesolo Libri Estate, che vede appunto una serie di autori famosi che vengono ospitati in una delle piazze più importanti. Una cosa che ci è anche piaciuta e che abbiamo avuto un po' modo di seguire tramite questo programma è stato il Festival del Giallo che avete fatto alla fine dell'anno scorso. Esatto. E che a noi come idea ha colpito molto. Sì, è stata un'esperienza abbastanza complessa da gestire. È piaciuta, ecco, è stata un'esperienza che ci ha un po' fatto riflettere, perché abbiamo capito quali sono le cose che piacciono di più e quelle che piacciono meno. E lì è stata forte la parte della cena con Delitto, che è stato un grande successo di pubblico e che ci chiedono di ripetere ogni anno. Comunque era una buona idea che avevamo fatto e speriamo di poter continuare a farla, insomma. No, è interessante anche in questi modi un po' tra virgolette originali di avvicinare persone alla lettura, che non è poi un terreno. No, infatti noi cerchiamo sempre di metterci in mezzo qualcosa. Ad esempio adesso è partita la rassegna Jesolo per l'arte 2011, che ha avuto, diciamo, l'apertura con la presentazione del libro di Tosofei, I segreti del Canal Grande, che è stato un grande successo, e abbiamo proposto, come l'anno scorso, una serie di visite guidate a Venezia. Anche quest'anno abbiamo dovuto fare due turni di visite perché non riusciamo a inserire, ad esaurire tutte le richieste, per cui sebbene noi non pensassimo quando siamo partiti, perché abbiamo detto Palazzo Ducale lo avranno visto tutti, in realtà non è così. Ma e quindi poi magari può giocare il fatto di avere una guida esperta. Sì, noi comunque non facciamo la classica visita dalla guida che prendi a Palazzo Ducale, per dire, la facciamo tramite del personale più esperto e che fa anche dei giri particolari a Venezia, che quindi fa scoprire degli aspetti che normalmente le persone non conoscono, e questo è piaciuto moltissimo e ha un grande seguito, insomma, questa cosa. Invece un'altra cosa molto simpatica che abbiamo fatto quest'anno si chiama Il Cinema è Servito. Siamo appena partiti, però sembra che funzioni. Praticamente è una rassegna di tre film, portiamo i bambini al cinema, mentre i genitori guardano il film, i bambini insieme all'associazione Pane e Cinema fanno il pane, imparano a fare il pane, finito il film si esce e si mangia tutti insieme un menù che è stato fatto in base al film. La prima puntata è stata la visione del film Stella, per cui il menù era a base francese. E quindi bellissimo. È stato molto divertente per tutti quanti, anche per noi operatori, insomma, che eravamo lì. No, più in generale volevo consigliare ai nostri ascoltatori il Cineforum di cui si occupa il comune di Jesolo, tutti i martedì. Esatto, Cine Martedì, di cui potete trovare notizie anche su www.radiosandona.it, che è il sito della radio, e che propone con cadenza settimanale, appunto, una serie di film d'autore che molto probabilmente, almeno nelle sale della zona, è un po' difficile poi reperire. Esatto. E una cosa che mi piace particolarmente è anche la vostra scelta di proiettare film in lingua originale. Sì, è una scelta che abbiamo fatto anche per stimolare anche chi magari, non so, studia lingue, ha un interesse particolare. Comunque il cinema è una cosa che piace. Quest'anno abbiamo anche provato, si è appena chiusa la rassegna di cortometraggi Short Fuse, Anche quella è andata bene, ovviamente si parla di cortometraggi, quindi non possiamo avere un pubblico di 200 persone, però abbiamo avuto comunque uno zoccolo duro che è sempre venuto e che era molto soddisfatto, insomma. È bello che ci sia una risposta anche in questo tipo di iniziative che magari possono sembrare un po' più ardite, nel senso Sì, che... infatti noi abbiamo fatto un azzardo. Perché, però è bello che ci sia un pubblico di nicchia, insomma. Esatto, Che... sì. Benissimo, io ringrazio Romina Grazie a voi. per essere stata con noi, e ringrazio Matteo per averci delucidato sulla figura di Silvio Trentin. Grazie a voi e come sempre sarò in compagnia occulta o meno anche nelle prossime puntate. Grazie e io vi rimando per una nuova puntata di Overbooking alla settimana prossima. Ci vediamo.